Genta e Pierluigi Pardo. Tu riceverai la visita di tre spiriti. Preferirei di no. Io sono lo spirito del Natale passato. Non mi tormentate! Ragazzi, è ufficiale, il Milan ha un nuovo allenatore. Ebenezer Scrooge, il personaggio di Dickens, il Natale passato, presente e futuro, che alleggerà a Milanello, dove il Milan è rinchiuso fino a data da destinarsi in ritiro. Pardo? Andiamo anche noi? Sì, Natale a Milanello, sembra il titolo di uno stile panettone, però insomma... io non credo che i tiri in assoluto siano la strada, però evidentemente se è stata presa questa decisione perché si voleva dare un segnale forte alla squadra, all'ambiente, a tutti, ai tifosi. Esatto. Più di così, più ai tifosi e all'opinione pubblica che non ai giocatori, perché non immagino che non siano particolarmente felici di questa soluzione e non credo neanche possa essere la soluzione. Non so come la pensa Nanu Galderisi invece, adesso glielo chiediamo. Ciao Nanu. Ciao. Come penso? Allora, io nella mia vita da calciatore e da allenatore. Ti dicono, ci sono stati dei momenti che secondo me stare insieme è servito tantissimo. Il mondo sta cambiando, sinceramente, questo sembra proprio una sfida, un togliere alle persone, alla gente qualcosa che può... No, niente, io li porto in ritiro perché non meritiamo e allora è un castigo che dobbiamo... io credo che se c'è un gruppo forte, e qui dubito perché... Dubito anch'io, sai. Dubito perché sono tanti ragazzi importanti, giocatori che sono stati comprati con il piglio giusto, perciò secondo me non si è creata quell'alchimia importante nel gruppo. I risultati con Montella sono stati mediocri, tra virgolette, però ho la sensazione che adesso ci sia instabilità, insicurezza. Io li ho visti domenica a Verona, non hanno neanche fatto male per un certo verso. Sì. Però come però se non fai male e prendi tre fischi è pure peggio, alla prima difficoltà si squagliano, Piero. Esatto. Questo, perché poi quello che dice Nanu, che conferma in fondo quello che aveva detto Gattuso, è vero. Cioè è vero che ci sono stati dei tratti di partita in cui il Milan era stato quasi brillante, però è vero pure che l'incapacità di reagire alle situazioni avverse è un problema enorme. Ho avuto la sensazione che il Milan cercava di fare, dopo due vittorie consecutive, mai successo, non lo so, mi sembra era un momento importante per fare il cambio, no? Per cambiare completamente la situazione, ma ho avuto la sensazione da fuori, vedendo la partita, che era un vorrei ma non posso, nel senso che mancava negli ultimi 20 metri. Tanta buona generosità, tanta buona volontà, ma tanta debolezza nel gestire le situazioni della partita. Come è arrivato un calcio d'angolo in area, sapevamo tutti che il Milan prendeva gol. A Verona c'era l'idea che il Milan prendeva gol, e nel momento in cui Suso ha avuto la palla del pareggio, portiere ha parato, ha avuto due o tre occasioni incredibili che non sono state sottolineate. Però il Milan poteva rimettere. Basta poco per creare il panico, tu dici. No, ma certo. Ragazzi, sta parlando Allegri. Sentiamo una battuta in diretta, conferenza stampa che precede la partita di Coppa Italia. E se nella evoluzione poi futura del giocatore le vede la possibilità che possa diventare un attaccante puro, più centrale? Penso si stia parlando di Dybala, argomento del giorno. Secondo me Piazza alla fine potrà Piazza fare invece bene il centravanti, o magari giocando in coppia con un altro attaccante. Perché è un giocatore che ha velocità, che ha tecnica di movimento, attacca bene la profondità. Per quanto riguarda domani il nostro obiettivo è quello di passare il turno, poi che giochi Piazza, che giochi un altro, conta relativamente. L'importante è che la Juventus domani faccia una bella partita, chi va in campo e chi viene in panchina, perché non è assolutamente semplice, perché poi dopo è una partita che va vinta sul campo. Di Juventus e di Dybala parleremo più tardi, naturalmente 800240024, ma rimaniamo sull'argomento Milan e su questa fragilità endemica del Milan. Ma non vi sembra tanta differenza nel modo in cui viene affrontato? Cioè, il Milan in questo momento qua, e tutti ce l'hanno con Bonucci, e tutti ce l'hanno con Biglia, e tutti, cioè, vengono attaccati tutti, e Donnarumma, nel momento che vinci due partite, combinazione, ti viene fuori la storia di Donnarumma che rompe le scatole in un momento dove la squadra... Certo. Cioè, ho la sensazione che non ci siano le porte chiuse, è in aria da tutte le parti. E purtroppo, essendo allenatore, vedendo Gattuso dire io non sono padre Pio, ti rendi conto che le problematiche sono molto più grandi di quelle che no, che poi il Milan è sempre stato un regno dalle porte chiuse. Tu sei stato protagonista dell'inizio dell'era Berlusconi, Nano, sei stato uno dei primi grandi acquisti di Berlusconi, e lì è cambiata la società. È facile fare un parallelo, o meglio, che parallelo, non è un parallelo per niente, una profonda distinzione tra l'inizio di quell'epoca e questa in cui regna il casino. No? Sì, perché qui praticamente non c'è un riferimento, siamo tutti stupiti da come ogni volta nasca qualche problema. È vero, il Milan domenica ha fatto una brutta figura, ma perché il risultato ha detto quello che è stato il risultato del campo, ma tutto sommato questo è un cambiamento in un momento di grande difficoltà, e c'è bisogno di uomini veri, di persone che lavorano bene e che credono fortemente che col compagno riescono ad andare. Io ho la sensazione che le teste basse del Milan non portano a niente, perché non sono forti loro nel poter dire dai vieni con me Montolivo, vieni con me Suso, dai, sembra quasi che chi dobbiamo uccidere, tra virgolette, con amore sportivamente parlando, sì, sì. Chi è qui da far fuori? E invece qui non c'è da far fuori, qui c'è da mettersi insieme. Sì, no, però Pier, dicevamo tutti in coro che il Milan aveva anche trovato una leadership, sembrava aver trovato una leadership che in passato mancava, no? Proprio negli acquisti estivi, da Bonucci a Biglia, cioè quelli che adesso finiscono sotto accusa. Sì, sì, apparentemente insomma c'era tanta personalità, tanta esperienza messa nel roster, no? Nella rosa di questa squadra. Ma è un po' quello che dice Nano, secondo me è stata una serie di problematiche che poi hanno creato un effetto domino, un effetto a catena, perché anche banalmente la questione Donnarumma, no? Con quella voce lì che esce, che poi non viene mai smentita, è una cosa che in una squadra che va bene, che è in testa della classifica, che sta per giocare lo scudetto, non sarebbe mai uscita fuori. Le stesse voci, io non è che voglio dire che tutte le voci sulle difficoltà economiche possibili del Milan siano tutte boiate, non lo penso, cioè non ho la certezza di poter dire questo, però sicuramente c'è un humus, c'è un contesto, c'è una situazione mediatica o psicologica che rende ogni spiffero contrario al Milan dal punto di vista tecnico, dal punto di vista economico, dal punto di vista manageriale molto più facile, cioè attecchisce molto di più. Ripeto, poi sicuramente ci saranno dei problemi, delle situazioni, anche la bocciatura da parte dell'UEFA della Voluntari è comunque un segnale, no? Però ti ripeto, se noi con la squadra in testa alla classifica, no, beh, chiaro, sarebbe stata una situazione diversa. Tutto questo non sarebbe venuto fuori, o sarebbe stato derubricato a chiaro, sarebbe stato metabolizzato in maniera, no? Ma sì, però io non vedo la possibilità di invertire questo trend. Addirittura si era diffusa la voce di dimissioni di Gattuso, sarebbe, secondo me, in questo momento un disastro per il Milan. Adesso c'è Milan-Atalanta, che è una partita importante, ma c'è il derby Coppa Italia, che è un'altra partita importante per certi versi, ma no, sono importanti tutte e due, perché è chiaro che se con l'Atalanta c'è il tracollo, poi insomma non siamo proprio sul baratro. Però la Coppa Italia è un'occasione, è una grande occasione di riscatto, paradossalmente, in questo momento dove il Milan ha pochissimo da difendere. Ha la possibilità di provare a darci una svolta nella stagione. Il 27 dicembre non è lontano. No, è chiaro. Poi c'è la Fiorentina subito dopo. Non vedo la possibilità di, cioè, non vedo come possa essere invertita la rotta. Non so se il Milan sia sulle ginocchia fisicamente, mi sembra anche quello. Però il tempo per rimetterlo in piedi è pochissimo. No, è questo il problema. Che il discorso è: ma come può fare il Milan a uscire da questa situazione? Ma nessuno ha la ricetta. Qui è una situazione veramente complicata. Allora, sì, è vero, il derby lo vincerà il Milan, perché il Milan vedrai che vincerà il derby, dicendo, ma non sarà quello il problema. Il problema sarà dare continuità a quello che stanno cercando di costruire. Hanno 24 punti, cosa hanno? 3 punti dalla Europa League, e non pensiamo più alla Champions League, cominciamo a pensare all'Europa League umilmente, cerchiamo di compattare bene nella situazione all'interno del gruppo, cerchiamo di dare un segnale forte. Io parlo di una società che deve dare indirizzi importanti, lasciamo fuori le polemiche e vogliamo mettere i giocatori in castigo, e mettiamoli in castigo. Se i giocatori sono intelligenti capiscono che devono tirar fuori qualcosa in più, però i tempi sono cambiati, di conseguenza io credo che all'interno di quello spogliatoio, all'interno di quel gruppo c'è un'apparenza tutto quello che vediamo, perché la personalità di Bonucci viene massacrata, la personalità di Biglia viene esclusa, la personalità di Suso attraverso le giocate, cioè è tutto un disfare invece di costruire. Certo, la sensazione è quella. Siamo stupidi nel dire le solite cose, perché ma no, sai, sono quelle, no. Non è che insomma alla fine è da agosto che parliamo del Milan ogni santo giorno, ma per un motivo ci sarà. Nano, ti ringrazio, a presto, ciao, buon Natale, ciao Carlo, un abbraccio, festa a tutti. Buona festa, Nano Calderisi. Traffico, torniamo e affrontiamo l'argomento Dybala Mariano, a dopo. Subito dopo l'intervallo la lotta continua. Tutti convocati. Convocati. Io sono felice qua, mi trovo bene, il mio procuratore arriverà in questi giorni, c'è la volontà da parte mia, adesso io devo aspettare la risposta della società che parlerà con il mio procuratore e vedremo cosa succederà. A me non mi hanno parlato di nessuna offerta, quindi io non devo rifiutare niente. Oggi abbiamo una bellissima notizia, che è stata la firma del nuovo contratto con la Juventus, altri 5 anni per trascorrere insieme, quindi sono molto contento e fiero di essere in questa squadra. Arrivano voci di grandi squadre come Barcellona, Real Madrid o tutte le squadre grandi, sempre fa piacere, perché vuol dire che uno fa le cose bene, però poi bisogna vedere quanto sono certe queste cose, perché tante volte quando arriva il mercato si parla di tante cose che a volte alcune non sono certe. I paragoni con Messi non è che non mi piacciono, però Messi è un giocatore che ha vinto 5 palloni d'oro, è un giocatore che ha fatto delle cose che non l'ha fatto nessuno nella storia del calcio, quindi io voglio essere io, non voglio essere paragonati con nessun altro giocatore, voglio fare la mia carriera, vincere i miei trofei. Allora, abbiamo ripercorso l'annata contrattuale di Paolo Dybala, dalle trattative alla firma del contratto, ai paragoni con Messi. Adesso però il personaggio, almeno leggendo il Corriere della Sera di oggi a firma di Giampiero Timossi, ma anche Repubblica, non è tanto Paolo quanto il fratello Mariano e i suoi viaggi nella Ville de Lumière. Pardo. Parliamo con Timossi, andiamo tutti a Parigi con Mariano Dybala, Magari. Andiamo a Torino a Timossi. Io posso iniziare con delle scuse. Devo scusare con Pierluigi che non sono riuscito ad andare alla presentazione del suo magnifico romanzo a Torino. Accetti le scuse? Accetto. Sì. Accetto se mi dici una volta. Partire. Se mi dici una volta si soccorre. E non posso, perché essendo un anziano ho perso anche molti denti e quindi sarebbe una cosa veramente nauseante per i vostri ascoltatori. Che cattivo Paolo, che carogna. No, non è cattivo, fa finta, troppo buono. No, ma dimmi invece di Mariano, no, perché leggendo il tuo pezzo di oggi, insomma, è uno scenario pazzesco. Sì, è un pezzo che abbiamo anche poi, fare come Pardo, abbiamo una pagina intera anche sul Corriere Torino che l'edizione di Torino, siamo molto felici e ringraziamo i torinesi per averci accolto così. La novità vera è il viaggio di Mariano Dybala a Parigi, non in aereo come erroneamente mi scuso ho scritto oggi, ma con altro mezzo, perché a quanto pare Mariano Dybala, come me, ha molta paura di volare, quindi questa è la novità. Però lo scenario che descrivi, raccontiamolo anche ai nostri ascoltatori. Lo scenario è quello che Mariano Dybala incontra alcuni dirigenti del Paris Saint-Germain e spiega ai dirigenti che, malgrado un contratto che lega suo fratello con la Juventus fino al 2022, sarà la possibilità di liberarlo, di portare Paolo Dybala al Paris Saint-Germain. Quando il Paris Saint-Germain deciderà, e a quanto almeno questo lo scenario che è nella testa del fratello procuratore del numero 10 argentino, quando il Paris Saint-Germain deciderà di vendere Neymar al Real Madrid, e secondo appunto Mariano Dybala questo potrebbe già accadere quest'estate, e quindi avrà bisogno di sostituire questo grande giocatore con un altro grande giocatore, e questo dovrebbe essere, non riesco a pensare a quale possa essere il prezzo di questa roba qui, non riesco ad immaginarlo. Il volume complessivo degli affari, no? detto questo, per arrivare nello specifico di quello che detto questo, Mariano Dybala fa il suo mestiere, ha un cliente importante, ne ha uno davvero importante, quindi probabilmente questa cosa la dice non soltanto al fratello, al quale di ritorno a Parigi spiega come sono andate le cose, magari la dice anche nell'ambiente del mercato. La notizia arriva anche ai dirigenti della Juventus, che evidentemente non gradiscono e decidono, pensano che forse sarebbe bene che ci fossero altri atteggiamenti da parte del procuratore, e magari sperano, chissà, che Mariano Dybala, che ha una grande esperienza in trattative, possa essere decisa di farsi affiancare da un altro procuratore. Questa situazione è così nota che alcuni agenti inevitabilmente sondano il terreno, ci sono tanti agenti che sono più vicini magari in qualche modo alla Juventus, pensiamo al bravissimo Rabito, pensiamo a Mendes, che è un procuratore di livello planetario, che quindi può pensare, no, di avere tra i suoi clienti un giocatore come poi, tra l'altro la Juventus non ha gradito nemmeno per rimanere al gossip quella copertina di Vanity Fair in cui Dybala compare senza maglietta della Juve, ma con la felpa aperta. Non parlo mai delle cose, è proprio una regola, non parlo delle cose né che scrivono né per mentire, cioè se posso confermo le cose che scrivono i colleghi, ma non mi risulta questa cosa, ma anche a me sembra bizzarro, mi limito a leggere e a riportare. Ma il discorso, la chiave del discorso è, Pierluigi, ma voi pensate davvero che Dybala voglia andare via dalla Juventus? Perché si avvalora l'ipotesi per cui quella frase, famosa frase di Ned, su cui tanto si è ricamato, vita privata eccetera, fosse veramente una questione contrattuale, perché la Juventus era pronta a trattare anche una rinegoziazione del contratto che è stato siglato l'anno scorso per tanti soldi, includendo i famosi diritti d'immagine. Voi, Pierluigi Pardo, poi Giampiero Timossi, sono naif, io penso che Dybala stia bene alla Juve. Poi è chiaro, è evidente che quando uno si sente nelle orecchie le parole Real Madrid, Barcellona, Paris Saint-Germain o cose del genere, insomma, sfido chiunque a non essere in qualche modo lusingato, no? C'era tra le dichiarazioni che abbiamo sentito anche una che candidamente riconosceva di essere lusingato, ma questo è umano, non c'è niente di male. Io penso che Dybala abbia un calo di condizione fisica, sicuramente l'intensità degli allenamenti dell'ultimo periodo non è stata quella ottimale, Allegri l'ha fatto capire con chiarezza. Credo che ci sia anche la questione di questo sponsor, che è una vicenda che non è del tutto chiara, ma insomma c'è una richiesta, da quello che abbiamo capito, che abbiamo letto, c'è una richiesta importante, pesante, da parte di uno sponsor tecnico col quale stava firmando un contratto, aveva firmato un contratto per una cifra significativa, e insomma in qualche modo, se la cifra è molto significativa, pare che lo sia, anche se Dybala ha già un sacco di soldi, però sì, non avrà il problema di arrivare a fine mese, però ti rode, ti può rodere tranquillamente tutto questo. Quindi questa è la situazione del quadro come lo vedo io. Poi la ricostruzione di Mossi di oggi è molto interessante ed è plausibile, ed è assolutamente plausibile, perché certo, insomma certo, quel giro di denaro è talmente grande, talmente importante, che insomma come fai a pensare che non faccia gola a tanti? No, ma è chiaro, ma è anche altrettanto evidente che la Juventus ha tutti i diritti di farsi girare le scatole, no? Visto che era pronta a rinegoziare il contratto, come Giampiero peraltro ha scritto oggi, e invece ha stoppato tutta la la trattativa, ma il senso è: vuole andare via dalla Juventus? Io fossi Dybala, io rimarrei alla Juventus da numero uno. Se poi mi cerco un'altra squadra, va bene, nel caso in cui si concluda questa cosa pazzesca, Neymar al Real Madrid, vengo al Paris Saint-Germain a fare numero uno, possiamo parlarne o no, Giampiero? Sì, io finisco il discorso di, rispondo alla tua domanda e finisco il discorso di Pierluigi. Io faccio cronista, registro che c'è una fase 1 e una fase 2. La fase 1, io credo sempre come Pierluigi nella buona fede, che non necessariamente dietro il caso di un campione c'è un problema che non riguarda la forma fisica, qualcosa di campo, no. Quindi fino a un certo punto io sono convinto di questa cosa, perché Dybala è partito come nessuno mai era partito in Serie A, perché ha segnato gol a raffica nelle prime gare, e quindi questa è la prima fase. C'è un piccolo calo, registro questo calo. Poi cominciano ad esserci le parole, cominciano ad esserci ad esempio le parole che prima circolano non pubblicamente, ma diciamo a taccuini chiusi, no? E ovviamente le ricostruzioni si fanno utilizzando non la fantasia, si fanno, almeno così non le facile, ma si fanno utilizzando e tutelando le fonti, le informazioni che si ricevono a taccuini chiusi. Certo. Quindi non c'è nulla di fantasioso, non è una ricostruzione, è una cronaca, certo, coprendo le fonti. Ma quindi, okay? Brutalmente credi, quindi, che voglia andare via? No, non credo che voglia andare via, credo che la Juventus vorrebbe che Dybala probabilmente si affidasse anche a un altro procuratore, e credo che, avendo un fratello e amando molto mio fratello, credo che non sia possibile che la Juventus cerchi di mettere da parte, magari nell'interesse anche del giocatore, creda, Mariano Dybala, che è il sangue del sangue di, certo, di Paolo Dybala. Dybala. Questo credo. Ti dico, ci sono delle cose, poi chiudo, delle cose che rendono esplicito questo problema. Le parole di Nedved, che non sono assolutamente di casa, Nedved non si è svegliato la mattina e ha deciso, no, perché la comunicazione della Juventus è straordinaria, lo sappiamo. Quindi così, parole che hanno colpito, diciamo, se non ferito, che hanno colpito Paolo Dybala, che dice: io non, e smentisce in qualche modo l'entourage di Dybala, quanto avevo scritto invece qualche settimana fa, in un altro, qualche giorno fa, in un altro pezzo, dove dicevo che Dybala era ingrassato almeno di un paio di chili. Io dovrei stare zitto, questa è la mia condizione, ma lui fa un altro mestiere. Dybala smentisce: non sono ingrassato, dice, faccio una vita regolarissima, e io non ho motivo per credere il contrario, perché giro per Torino, lavoriamo moltissimo, qui ci divertiamo, e più o meno, non tutti, ma qualche volta li becchiamo. Dybala abita a pochi metri dalla nostra redazione, quindi voglio dire, non sarebbe difficile, no? Usciamo ad orari. Quindi, certo, certo. Ci sono queste parole. Dall'altra parte ci sono le parole chiarissime di Allegri, no? Che anche Allegri, in conferenza stampa prima della sfida contro Bologna, taglia corto Dybala e spiega che questa è la linea. E Allegri è un tecnico che ha imparato negli anni a gestire benissimo i grandi campioni, ha fatto ha avuto qualche difficoltà in più, forse perché era all'inizio al Milan, ma adesso credo che sia giustamente poi, il numero uno. Alle spalle coperte da una grande società, Giampiero, che il senso è quello, poi possiamo fare. Diciamo che per usare il tuo, ha due spalle così. Se volete, togliamo anche la S. Posso fare una facile profezia: Dybala tornerà. Secondo me è una situazione non molto diversa da quella di Higuaín all'inizio di stagione. Tornerà, e tornerà con numeri che magari non saranno quelli dell'inizio di stagione, perché giustamente Timo ha sottolineato l'eccezionalità della partenza di Dybala, che in qualche modo ha anche probabilmente drogato le aspettative, perché è chiaro, come dice Allegri, che se avesse continuato con i numeri all'inizio della stagione avrebbe fatto 70 gol. E non è... Io devo dire che nelle ultime uscite non ho visto sempre male. Per me è entrato male con l'Inter, sicuramente con l'Inter non mi è piaciuto, ma per esempio a Bologna secondo me non è entrato male. Nella partita contro il Milan, che era comunque un mesetto fa, c'è stata, forse era più di belle, ma insomma, comunque sia, era già nella fase, diciamo, post 24 settembre, post partenza da record, e ha fatto degli assist, ha fatto dei veri, io vedo un giocatore comunque che si accende. È ovvio che il rendimento di queste ultime settimane non è all'altezza, e nemmeno dal punto di vista della continuità. È un'altalena che dura ormai da diverso tempo. Ragazzi, vi ringrazio. Giampiero, grazie. Grazie a voi. Ciao. Saluto. Auguri, perché fra poco è Natale. Fra poco è Natale, già. Ciao Pierluigi. Ciao. Allora, Roberto, provincia di Vicenza, Mattia da Pescara, traghettiamo tutti insieme oltre la, le colonne d'Ercole della Borsa, poi arriveranno anche Marino Bartoletti e Leo Turrini per un imperdibile swing. Tutti convocati. Per me senza lattosio. Senza glutine, grazie. Potrei averlo senza lievito? Senza pomodoro. Senza zucchero. Per me senza bolletta, grazie. Come senza bolletta? Se sei intollerante alle bollette, pagale con Sisal Pay. Fino al 24 dicembre, se effettui un pagamento online o nei punti Sisal Pay, partecipi al concorso Senza Bolletta Vacanza Perfetta e potresti non pagare le bollette per 10 anni. Inoltre, ogni settimana in palio un anno di bollette pagate. Sisal Pay. Comodo pagare così. Regolamento e condizioni su sisalpay.it. Il Natale sembra non arrivare mai, come i capolavori della casa vinicola Sartori. L'amarone della Valpolicella e il Valpolicella Ripasso Sartori, sulla tua tavola solo dopo un lungo affinamento. Eh sì, per la qualità Sartori serve tempo, ma non vedi l'ora di fargli la festa. Benvenuto nel sistema CombiVox. Inserire codice. Inserito impianto totale. La tua casa, i tuoi spazi sono al sicuro grazie al sistema CombiVox, che integra le funzioni di antifurto, videosorveglianza e domotica. Scegli CombiVox, garanzia di sicurezza made in Italy da oltre 30 anni e goditi la tua tranquillità. Sempre. CombiVox ti protegge, ovunque tu sia. CombiVox. Enjoy life. Safely. CombiVox.it. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta... Cerco un dolce senza lattosio. Freddi. Lo vorrei con meno di 100 calorie. Freddi. Voglio una merendina dal gusto diverso ogni giorno. Freddi. Dolcetto Freddi. Nei gusti di fragola, albicocca, cacao, ciliegia o ricoperta di glassa fondente. Ancora un altro. Capo, ricorda quella pratica urgente da aggiornare? Dov'è finita? Il cliente è infuriato. E non la trovo, troppi documenti. E dove sono la nostra efficienza e affidabilità? Quanto mi costa tutto ciò? Affrontiamo la digitalizzazione documentale? Sì, ma come? Per abbattere inefficienze e costi documentali, non sparare a caso. Chiama Kyocera Document Solutions, gli specialisti del documentale. Trovi i documenti subito, li scansisci in cloud e li stampi da mobile. Kyocera Document Solutions, la trasformazione digitale che ti fa focalizzare sul tuo core business. Scopri vantaggi su www.kyoceradocumentsolutions.it. C'è un piccolo territorio nel cuore della Lombardia, ricco di storia, arte e natura, patria di un vino di altissima qualità. È la Franciacorta, viti dalla storia antica e metodi moderni. Franciacorta, una storia di passione. Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio. Ehi, amico! Se sei un'azienda e cerchi agenti, vai su agenti.it. Rappresentanti e venditori, evviva! Vai su agenti.it. Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè! Tutti convocati. Dunque, io credo di aver fatto un favore, un regalo a Roberto da provincia di Vicenza, Mattia da Pescara, che sono in linea da un po', perché potranno contare sull'opinione del professor Bartoletti. Buongiorno. Buongiorno, io sono in ritiro con l'Udinese a Palazzo Caracciolo di Napoli. In ritiro con l'Udinese, ma stai lì anche per Natale, no? Giustamente, Capodanno, ritiro fino a data da destinarsi. A Natale si torna nella natia Romagna, naturalmente, ci mancherebbe altro. Quindi finisce tutto stasera con Napoli Udinese di Coppa Italia, già capito, poi torni. Roberto, buongiorno. Sì, buongiorno. Le presento Marino Bartoletti. Mi fa molto piacere perché è un giornalista che stimo molto. Grazie. Come del resto anche voi, fate una buona trasmissione. Io volevo collegarmi un attimino alla classifica del Milan che parlavate prima. Tutti parlano che l'obiettivo Champions League non è più possibile raggiungerlo, chiaramente, e c'è solo l'Europa League, ma dietro, alle spalle, non ci pensiamo. C'è il Sassuolo e il Crotone che continuano a far punti, e il Milan che continua a arrancare, quindi io direi meglio pensare anche alla salvezza a questo punto. Eppure, anche se sono milanista... eccesso di pessimismo, io credo, ma le faccio rispondere tra poco da Marino Bartoletti. Sentiamo anche Mattia direttamente, poi diamo una risposta comune. Dica Mattia. Buongiorno, grazie di avermi convocato. Un saluto a lei e al Marino. Volevo dire solamente una cosa su Mariano Dybala, il fratello di Dybala. Io sono anch'io milanista e sono molto dispiaciuto per come sta andando la mia squadra. E anche io sono d'accordo con l'altro ascoltatore che bisogna stare attenti alla classifica. Siamo alla metà classifica adesso. E comunque al volo volevo dire su Mariano Dybala che gli agenti sono dei professionisti e non bisogna inventarsi agenti, quindi questi fratelli, mogli, padri, madri non possono inventarsi un mestiere che non sanno fare. Quindi quello che Dybala sta adesso passando è tutta colpa del fratello, cause milionarie dello sponsor tecnico, causa del suo vecchio agente, sono tutte cose che ha provocato il fratello, perché è un inesperto, ma non è perché sono con lui, ma perché per fare l'agente, anche io sono un agente di commercio, però non si inventa venditori. Questo è chiaro. Poi insomma non so come si sia inventato Raiola il principe degli agenti, non so se Icardi sia scontento della agente moglie Vandanara. Poi è chiaro che Dybala ha dei problemi di questo tipo, oltre che credo dei problemi, Giorgio Luca mi insegna, in questo momento di collocazione tattica in una squadra che ha trovato se stessa senza Dybala e che non prende più gol. Marino, prego. Stavo pensando alla Boldrini che vorrebbe che la moglie di Icardi si chiamasse Agenta e non Agente, perché anche questo succede. Una volta le mogli dei calciatori facevano cose buone perché c'era lo spogliatoio delle mogli, ricordo una per tutte, Mary Bruscolotti, quando l'anno dello scudetto riunì le mogli dicendo: ragazzi, i nostri uomini sono importanti, facciamogli arrivare a questo scudetto, poi ci divertiremo. Aperta e chiusa parentesi, naturalmente. Guarda, oggi è il giorno in cui ricordiamo i 25 anni della scomparsa di Gianni Brera e lo facciamo con l'affetto che tutti gli portiamo, e puoi immaginare nel mio caso, visto che per me è stato un mito, un punto di riferimento, un padre, eccetera eccetera. Gianni Brera diceva che i pronostici li sbaglia soltanto chi li fa, e lui ne sbagliava abbastanza, devo dire, che non intaccava la sua competenza. Nel campionato 81-82 predisse il Milan sicuramente nel podio della classifica. Quell'anno il Milan retrocesse per meriti suoi, non per meriti, come dire, burocratici. È un rischio che evidentemente non corre quest'anno, anche perché c'è una divaricazione tale fra le zone alte, medio-alte, medie e basse della classifica, per cui dovrebbe fare dei danni inenarrabili il Milan per poter essere invischiato nella lotta per non retrocedere. Certamente questa rottura prolungata è veramente preoccupante. Devo dire, con tutta l'onestà che noi dobbiamo esercitare in questa trasmissione, che molti di noi, me compreso, avevano previsto il Milan, se non altro per l'impegno profuso, fra le prime o comunque fra le protagoniste del campionato. Evidentemente l'alchimia non ha assolutamente funzionato, fra un po' arriverà un grande esperto di figurine, cioè Leo Turrini, che ci spiegherà perché e per come le formazioni non si fanno sfogliando l'album delle figurine. Ho paura che il Milan abbia fatto esattamente questo. A questo aggiungi una cosa, e poi chiudo l'argomento perché sono tanti, immagino oggi, che secondo me persino nel ventunesimo secolo una società dovrebbe avere un padrone. Esatto. Un padrone, esatto. Lo dico naturalmente nel termine più affettuoso che chiaro, si possa usare. Un padrone come sono stati i Rizzoli, un padrone come sono stati i Berlusconi, un padrone come sono stati gli Agnelli, i Moratti, ma anche i Lenzini, anche i Dallara, anche i Ferlaino. Cioè, se una squadra non ha un punto di riferimento al quale rendere conto, ho paura che questa, ripeto, rottura prolungata, questo sbandamento, poi finisca veramente col non avere fine. Lo sa anche Leo Turrini, collezionista. Sono fermo sulla Piero Cormano. Dovete avere pazienza, vi unisco da questa coda interminabile al ricordo di Giovan Pera Fucarlo. Avete fatto bene a evocarne la memoria. Beh, parlando di padroni, insomma, io sono d'accordo come sempre col mio idolo Marino. Ieri ero a tavola con Sergio Marchiotte, che sicuramente più padrone di lui non chi ha pagato nessuno. Leo, chi ha pagato? Avete capito? No, ho pagato io, perché lui è solo stock option, avete capito? Però voglio dirvi una cosa, qui siamo in coda, ma sono tutti sub, Silvio, Alfa Romeo, siamo fermi così, la tecnologia italiana, il meglio del meglio, cosa dobbiamo fare? Pensiamo sommessamente che il prossimo mondiale di Formula 1, dopo aver visto Hamilton da Fabio Fazio, creatura di Marino Bartoletti,